za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, Majiće King! Blagane zore, Balkan Rock, Bude verista, Sumaj Radio, Fabrička jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Balkan Rock, buongiorno a tutti. Balkan Rock è la trasmissione che tutti quanti stavate aspettando. Allora ciao da Slaventina e da Dusko. Benissimo, allora vi diamo il benvenuto su Balkan Rock, puntata numero zero. Vi chiederete che cos'è Balkan Rock, noi ve lo spiegheremo fra pochissimo. Prima di tutto vi diamo i nostri contatti, così durante la settimana potrete rimanere in contatto con noi e raccontarci che cosa vorreste che fosse Balkan Rock. I nostri contatti sono il gruppo Facebook Balkan Rock at My Radio, il blog balkanrock.noblogs.org. E allora, prima di tutto, vi diamo il benvenuto e vi accogliamo con una canzone, con un pezzo. Dusko, che cosa ci proponi? Sentiamo gli EKV, un famosissimo gruppo, diciamo, synth pop degli anni 80. Il brano si chiama Zemlja, la terra, dell'album Ljubav del 1987. D'accordo, allora questi sono gli EKV. Ascoltateveli tutti. Zasuna comunque ci troviamo sempre su Balkan Rock. Ci volevamo raccontarvi un po' che cos'è Balkan Rock. E allora chiederei a Dusko, dopo questo bellissimo pezzo degli EKV, ricordiamo Zemlja, di raccontarci che cos'è Balkan Rock. Ok, va bene, provo a introdurre un po' il discorso. Balkan Rock è nato innanzitutto come un blog che si occupava di musica e della cultura pop dei paesi ex jugoslavi. È un blog nato diversi anni fa, ormai nel lontano 2006, sul quale però, vabbè, non scrivevo in maniera del tutto costante, diciamo. Ecco che adesso diventa una trasmissione radio. È una trasmissione che si occuperà appunto della cultura pop, di quello che oggi chiamano in modo un po' asettico Balcani occidentali e che una volta si chiamava Repubblica Federativa Socialista Jugoslava, che non esiste più nelle nostre cartine, mi pare, no? Non esiste più ormai dal ufficialmente dal 99, mi pare, o sbaglio, 2001, anzi ultima, diciamo, beh, sono state tante le cartine che hanno dovuto riformare in questa puntata... dagli anni 90 in poi, diciamo che è stato duro il lavoro dei cartografi. Sì, non affrontiamo subito gli aspetti geopolitici, ci occupiamo più degli aspetti culturali, quindi vi faremo sentire tanta buona musica, parleremo di cinema, dei film, delle curiosità che legate a quel mondo lì, alla ex Jugoslavia, diciamo. Faremo anche dei paragoni tra quello che fu e quello che è oggi, diciamo. Tra le altre cose, nell'ex Jugoslavia c'era una straordinaria scena musicale negli anni 70 e 80, di cui si sa ancora relativamente poco, credo. Anche no? Se noi il termine ex non è che ci piace così tanto, possiamo dirlo che non ci piace? Non lo so, dipende dai punti di vista. Valentina, ex effettivamente non esiste più. Vabbè, esiste uno spazio. Beh, neanche l'impero romano non esiste più, però non è che dico io vengo dall'ex impero romano d'occidente, giusto? Quindi la chiameremo Jugoslavia. Post-Jugoslavia, dai. Post-Jugoslavia, aggiudicato. Va bene. E quindi parleremo di come si vestivano, cosa ascoltavano, dove uscivano i giovani jugoslavi, e invece vedremo anche che cosa fanno oggi con tutti questi nuovi confini e queste nuove identità che sono sorte appunto a partire dalla fine degli anni 90, quali erano le usanze, quali erano i luoghi di culto nel senso laico del termine, dove viaggiava la gente, che film guardava e che rapporto aveva con l'Europa occidentale, diciamo. Questi grosso modo saranno i temi di questa trasmissione. Vuoi sì, aggiungere poi qualcosa? Ci potrebbe essere anche qualche piccolissimo spazio informativo, probabilmente una piccola rassegna stampa da East Journal, Osservatorio Balcani, che sono sicuramente i più importanti fra le testate giornalistiche online che si occupano di notizie dai Balcani, e sono anche quelle che a noi sono più care. Siccome non siamo giornalisti, sicuramente non ci prendiamo la responsabilità di raccontarvi delle cose noi, però possiamo prendere in prestito le loro parole per raccontarvi alcune cose di ciò che avviene al di là dell'Adriatico, un posto che è molto vicino a noi eppure così lontano. Benissimo, allora sentiamo un altro pezzo prima di proseguire, e sentiamo Zana con Dodirni Mikol, Olena, un pezzo che a te piace moltissimo, no? Toccami le ginocchia. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, ostavi lukice, koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, već 10 dana, daj mi svoj auto. Ključ od stana, hej, nas vežem lekom, miriš Do dirni mi colena, to bibash vogliela, e questa era Sana, toccami le ginocchia, lo vorrei davvero tanto. Allora, dopo esserci ascoltati questo pezzo, andiamo di nuovo a raccontare un po' di che cosa tratta questa trasmissione. E siccome questa trasmissione parla di Jugoslavia, ecco, già parlavo al vocativo perché Jugoslavia mia. È bellissimo il serbo-croato, il fatto che abbia il vocativo, non sei d'accordo con me? Sì, ecco, però non godo così tanto di fronte a queste sottigliezze linguistiche, queste nerdate linguistiche, sì. Di cui godo io. Bene, questo paese, dicevamo, sulle cartine geografiche non esiste più, e quindi dovremmo introdurvi il concetto di jugonostalgia, o jugonostalgia come diremmo in italiano. Bene, e siccome io godo di nerdate linguistiche, vi vado un po' a raccontare la storia anche dell'etimologia di questa parola. Parola che è un neologismo tedesco che si riferisce alla nostalgia per la vita nella vecchia Repubblica Democratica Tedesca. La parola è appunto Ostalgie in tedesco, e scusate la mia pronuncia calabra, ma è una crasi delle parole tedesche Ost, che significa est, e nostalgia appunto, nostalgia dell'est, quindi. Si riferisce particolarmente a quella vita quotidiana, in questo caso della vecchia DDR, che scomparve, come sappiamo, dopo la riunificazione, sostituita dal capitalismo e dalla cultura occidentale. Neologismo che parte appunto nel 2008, essendo inserito nel dizionario Zanichelli, entra a far parte della lingua italiana. Ma che cosa vuol dire nel caso jugoslavo? Che cos'è questa nostalgia nel nostro caso, nel caso jugoslavo? È un sentimento di sentirsi indipendenti, sì, ma indipendenti in mutande, perché il lavoro non c'è, il livello di vita è precipitato, viaggiare è un sogno e i figli non hanno prospettive. In questo ci sentiamo molto vicini, no? Sì, ecco, diciamo che jugonostalgia, o jugonostalgia come si dice in serbo-croato, si compone da tre elementi, secondo me. Cioè c'è un elemento sentimentale, uno legato più strettamente al ricordo, e alla memoria, e un altro è quello, un vero e proprio disturbo d'identità, secondo me, che affligge centinaia di migliaia di persone, se non di più. Un sentimento appunto dovuto, come dicevi prima, alla perdita delle sicurezze. Chiaramente non stiamo parlando solo delle sicurezze economiche, ma anche delle certezze legate al senso di appartenenza a quello che si considerava un grande paese, che comunque godeva di una certa stima a livello internazionale, no? A differenza degli statarelli che sono sorti dopo. Ci si sente un po' orfani, forse, per quelli nati fra gli anni 70 e gli anni 80, ma anche quelli prima, che ritrovano nei propri documenti il paese Jugoslavia come stato di nascita, e non lo ritrovano più però nello stato attuale di cose. Non ci si sente un po' orfani, sia a livello di lingua che a livello di identità? Sì, sicuramente. Penso che sia anche questo. Cioè, non è solo banalmente si stava meglio quando si stava peggio. Diciamo, c'è tutta una serie di legami forti che si creano con luoghi, oggetti, eventi, personaggi tipici per quel paese. E appunto, una volta cessato di esistere il contesto socioculturale in cui queste cose avevano uno status forte, un ruolo particolare, automaticamente sono stati consegnati ad una sfera, diciamo, mitologica. Per questo appunto c'è anche un aspetto parareligioso in questo fenomeno che si chiama jugonostalgia. Raccontaci, perché io so che tu ami definire gli jugonostalgici in due categorie, li classifichi in due categorie proprio a partire da questo aspetto parareligioso. Sì, perché appunto diciamo si possono suddividere in jugonostalgici critici e acritici, diciamo, quelli che diciamo, quelli acritici chiaramente sono quelli che lo venerano come un culto, che prendono per buono tutto quello che era la ex Jugoslavia, compresi anche gli aspetti negativi del regime di Tito. E poi ci sono quelli critici, cioè consapevoli dei limiti di quell'esperienza, che la guardano senza un approccio fideistico, non la venerano come un culto, ma semplicemente pensano che poteva proseguire, poteva essere riformata. E sono assolutamente contrari alla frammentazione e alla nascita degli statarelli, che pretendevano addirittura di essere degli stati etnici, cioè una cosa alla quale adesso devono rinunciare di fronte alla eventuale entrata nell'Unione Europea. Anche questa parola etnia non è una parola che a noi di Balkan Rock piace particolarmente, perché l'etnia è molto molto complicata da definire. Penso che la definizione, che adesso magari andiamo a prenderci da qualche dizionario, sia un po' troppo tirata, no? Come non si può parlare forse di etnia serba o di etnia bosniaca o di etnia bosniaca o di etnia croata, suona un po' male. Sì, è una forzatura, sì, una cosa tirata per i capelli, infatti. Va bene, allora, se sei d'accordo, andiamo a sentirci i Bielodugme, che sono sicuramente un gruppo simbolo dei 50 anni della Jugoslavia, con Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio, sputa e canta mia Jugoslavia. Ješte od nas noćne knjige, Rock, puntata numero zero, e siamo ai microfoni con Dusko. Bentornati, abbiamo sentito i Bielo Dugme con questa canzone Jugoslavio. Diceva: chi non ascolterà le canzoni ascolterà la tempesta. Infatti hanno con Sluša pesmu, Sluša će oluju. Bene, stavamo parlando, introducendo il concetto della jugonostalgia. Diciamo, si parte dalle basi. Abbiamo detto che si suddivide, la suddivideva in tre elementi: sentimento, ricordo, disturbo d'identità. Il ricordo di quel paese in qualche modo è inibito e addirittura proibito dai nuovi governi che si sono instaurati dopo le guerre jugoslave. Diciamo che le nuove ideologie alla base degli stati, che appunto in alcuni momenti pretendevano di essere mononazionali, si basavano sulla negazione dell'esistenza di quell'esperienza multiculturale, cioè sulla negazione dell'altro proprio. Quindi affermavano la propria esistenza sulla negazione di tutto quello che ci fu prima. E questo a volte, diciamo, provoca una reazione contraria, cioè quindi una volontà di ricordare, di recuperare anche. Cosa intendi con reazione contraria? Una sorta di ribellione personale, cioè un po' intima, cioè la volontà di recuperare quello che si ritiene positivo dell'esperienza jugoslava, in qualche modo di restituirlo. Questo soprattutto nel caso degli artisti, dei registi, non so, mi viene in mente la regista di Cinema Comunisto. Questa giovanissima regista, tra l'altro, Mila Turajlić. Mila Turajlić. Sì, che ha fatto questo documentario soprattutto su Avala Film, una grossa casa produttrice cinematografica che inizialmente si occupava soprattutto del filone legato ai film di guerra, cioè ai film sulla resistenza dei partigiani jugoslavi, sulla liberazione. Partisanski film. Partisanski film. caratterizzato una corrente consistente del cinema jugoslavo, che poi ha tutte le varie sottocategorie, un cinema fortemente ideologico. Infatti la regista diceva questa Avala Film era la nostra Hollywood, cioè in qualche modo era il sogno socialista jugoslavo. Film in cui nessuno voleva mai fare la parte del tedesco. Esatto. Esattamente come quando si giocava da piccoli a partigiani e tedeschi, nessuno voleva mai fare il tedesco. Un po' quello, un po' come da noi quando si gioca a nascondino, quello che deve contare, un po' lo sfigato della situazione. Esatto, cioè i bambini ispirati da questi film giocavano a come a cowboy e indiani, loro giocavano a partigiani e tedeschi, infatti i poverini che dovevano interpretare i tedeschi erano sempre quelli un po' più sfigati, che dovevano volenti o nolenti accettare questo infame ruolo. Va bene, allora, già che ci hai accennato qualcosa sul cinema jugonostalgico, siccome sicuramente è un appellativo che possiamo dare a diverse forme d'arte, al cinema, alla letteratura e a tante altre forme d'arte, che sicuramente nel corso delle prossime trasmissioni andremo a sviluppare molto molto molto più nel dettaglio. Adesso stiamo facendo un po' un putpurri di quello che avverrà nelle prossime trasmissioni, però siamo partiti col cinema, con Cinema Comunista. Ti viene in mente, Dusko, qualcos'altro rispetto al cinema? Un po' quello che abbiamo visto l'estate scorsa al Film Festival di Herceg Novi in Montenegro. C'è questo piccolo festival del cinema che si tiene su una fortezza turca del XVI-XVII secolo, e abbiamo visto Falsificator, il falsificatore di Goran Marković. Diciamo è un altro film ambientato negli anni 60. Sì, in qualche misura contiene degli elementi jugonostalgici, forse è un po' riduttivo, non so se piacerebbe al regista sentire definire il suo film jugonostalgico, però diciamo ha uno sguardo bonario su alcuni aspetti, un po' meno su altri. Esattamente come aveva uno sguardo bonario nell'altro suo film celebre Tito e Ja, in cui un piccolo ragazzino, un piccolo pioniere Titino, era appunto il protagonista di questa commedia tutta jugoslava, che in qualche modo incarnava lo sguardo un po'... Aiutami, non mi viene in mente il termine. Uno sguardo innocente di un bambino. Cioè, la maestra gli dà per compito di scrivere una poesia per partecipare a un concorso. E c'è questo bambino che coltiva il culto della personalità di Tito per dispiacere dei genitori che erano un po' anticomunisti. Erano persone che si sono viste confiscare dei beni dopo la guerra, non vedevano di buon occhio il regime. E quindi erano disperati con sto figlio che era fissato con la figura di Tito. Ma questo figlio forse lo faceva anche un po' inconsapevolmente, no? Perché anche la sua fidanzatina, o quella che avrebbe voluto che fosse la sua fidanzatina, faceva la pioniera. E allora Porello, era all'elementare, era proprio uno sguardo innocente, un po' come se fosse la cosa giusta da fare, perché lo facevano tutti. Sì, ma naturalmente un bambino di 8 anni, mi pare, quello del film, il protagonista del film, e alla fine scrive questa poesia in cui dichiara di voler più bene a Tito dei suoi genitori, cioè una dedizione totale che appunto poi lo porta a vincere il concorso, a partecipare a una gita. Non stiamo adesso a raccontarvi tutta la trama del film. Va bene, cosa facciamo? Sentiamo un altro brano? Ma sì, dai, sentiamoci gli Zabranjeno Pušenje. Zabranjeno Pušenje, gruppo sarajevese con Guzonjin Sin. U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. O come ne rastu, sempre si idrat. Večera si mam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene, jer ja sam guzoljiv sin. Ja sam guzoljiv sin! Svog novoga Porschea i malko ću se voziti s njim. Jer ja sam guzoljiv sin. Jer ja sam guzoljiv sin. Jer ja sam guzoljiv sin. Jer ja. Ja sam guzoljiv sin! Ja sam guzognin sin degli Zabranjeno Pušenje. Dunque siete sintonizzati su Balkan Rock a tenervi compagnia su My Radio. Ci sono Duško e Slaventina. Stavamo parlando di Jugonostalgia e continuiamo appunto a parlare ancora un pochino di Jugonostalgia e di questo concetto che ha addirittura una sua enciclopedia, un'enciclopedia della Jugonostalgia o per meglio dire della mitologia jugoslava. Quindi uno degli editori, Giorge Matic di Zagabria, afferma che questo libro piuttosto corposo con le sue 400 pagine e quasi un migliaio di note è un promemoria di ogni cosa che i cittadini dell'ex Jugoslavia ricordano ancora oggi con rimpianto a proposito dei suoi 50 anni di esistenza. E tra le mille voci del lessico della mitologia jugoslava, lessico perché l'hanno tradotto male in questo articolo con la parola lexicon, ci sono notizie della prima macchina jugoslava, la Fiat 750 costruita sotto licenza, i viaggi a Trieste per comprare i beni dell'Europa occidentale che non si potevano trovare nei negozi del blocco orientale, quindi calze di nylon, jeans, Coca-Cola credo anche sicuramente. E i primi gruppi rock jugoslavi, le vacanze di massa nelle residenze estive dei lavoratori, sulla costa croata, i viaggi delle squadre di lavoro giovanili e anche personalità come quelle del presidente Tito. Se io ti dico una lettera, sì, tipo la C, adesso vammi a pescare una parola del lexicon e qua ti voglio. Cogli un po'. Proprio la C, allora la C, la C, la C di... La C di cocta. Ah, cocta, ecco, però essendo madrelingua serbo-croato, per me la C è una lettera a sé, non è la C, la K. Se dovevi dirmi la K, allora magari mi mette cocta. Cocta era la risposta jugoslava alla Coca-Cola. Era la una bevanda, non so, a base di qualche estratto di melograno che assomigliava molto alla Coca-Cola, e fu creata, prodotta già negli anni 60, cioè me ne parlava mio padre che beveva la Cocta da piccolo. Oggi è tornata in voga di nuovo, quindi Jugonostalgia, oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato a livello culturale, cinematografico, letterario, eccetera, ha anche una sua collocazione economica, è diventata una sorta di brand, un marchio, Jugonostalgia, che dici? Sì, perché ormai si vendono anche tanti gadget jugonostalgici, a partire dalle tazze o dalle magliette con lo sponsor, la mascotte delle Olimpiadi di Sarajevo dell'84, questo lupetto dal nome Vučko, piuttosto che appunto questo libro, come altri libri che so io, quello che è uscito con le ricette della cucina a casa Bros Tito. Sì, il ricettario degli emigranti, sì, non mi ricordo il nome, Dejanovicic o qualcosa del genere. Dejanovicic, quello è Emigranski Kuvar, che è quello di cui parlavi tu. No, io parlavo proprio di un'altra pubblicazione, tra l'altro, che sì, sicuramente con delle belle fotografie, una bella pubblicazione, però evidentemente un business jugonostalgico, perché costa i suoi 3.000 dinari, cioè una trentina di euro, quindi insomma... non poco per le tasche degli ex jugoslavi. Sì, è stato annusato, diciamo, anche il business legato a questo sentimento, diciamo, si recuperano i prodotti dell'ex Jugoslavia, i vecchi marchi magari delle aziende che poi hanno chiuso, si sono fuse ad altre, quindi si investe sul marketing degli affetti, puntando appunto su queste tendenze degli anni 2000, al revival, al vintage, eccetera eccetera. Quindi tra questi prodotti, diciamo, c'è anche la cocta, come dicevamo prima. Ci sono dei locali addobbati con tutta l'iconografia socialista dei decenni passati, c'è addirittura stava nascendo una catena delle burekdžinice, cioè era una sorta di panetteria, focacceria dove vendono burek, magari qualcuno sa che cos'è questa sfoglia con formaggio, con la carne, che voleva utilizzare il volto di Tito. Poi mi pare che c'era una controversia, i familiari si erano opposti a questa cosa, hanno fatto la causa, alla ridicolizzazione dell'immagine. Sì, perché comunque non sarebbe una cattiva idea dal punto di vista del marketing. Immagino che i turisti apprezzerebbero moltissimo e sicuramente riempirebbero i fast food del centro di Sarajevo se ci fosse una cosa del genere. Diverso è, per quello che dici tu, alcuni caffè che invece hanno magari dietro anche un progetto più politico, quindi il recupero dell'identità, il ricordo di quello che fu, come ad esempio c'è a Sarajevo sicuramente, perché la Bosnia, possiamo dirlo, forse più di tutti ha questa malattia, no? questa jugonostalgia da curare. Sì, forse sono quelli che hanno perso di più con la distruzione dell'ex Jugoslavia, cioè quelli che hanno ne sono usciti peggio, forse. Che ancora non riescono forse a ricostruirsi un'identità vera e propria. immagino anche per la situazione politica instabile di cui andremo ad accennare fra poco dopo il prossimo pezzo, ma non lo so, lasciamo questa domanda aperta e poi proveremo a rispondere a questa domanda magari nel corso delle prossime trasmissioni. Ma io volevo raccontare invece la mostra Givio Givot, quella che c'è stata a Belgrado quest'anno, una mostra della dolce vita jugoslava, quando l'uomo medio si alzava alle 6, si lavava i denti con il dentifricio nazionale, faceva colazione in un appartamento che odorava di latte caldo e poi andava al lavoro come Fantozzi, una scena fantozziana alla jugoslava, e andava al lavoro con la sastava nuova di zecca, e questi sono i materiali che illustrano, parte dei materiali che illustrano questa esposizione in puro stile Goodbye Lenin a cui noi abbiamo partecipato. Ci sono molti installazioni interessanti, di cui probabilmente in questa trasmissione non avremo tempo di parlare, ma di cui potrete trovare informazioni dettagliate sul nostro blog, che ricordiamo è balkanrock.noblogs.org. E adesso andremo ad ascoltarci gli Asra con Balkan, un pezzo importantissimo per la mia formazione musicale, e penso anche un pezzo importante per la formazione musicale di un po' tutti i ragazzi jugoslavi medi, no? Sì, sentiamo gli Asra con Balkan. Let me take my E quindi questi erano gli Asra con Balkan, e noi andiamo avanti su Balkan Rock come le prossime domeniche, ogni domenica dalle 18 alle 19 su My Radio. Andiamo avanti a parlare di Bosnia, perché sicuramente tanti di voi avranno ascoltato nei TG e anche nei media, su internet, le proteste a causa delle privatizzazioni fallite in Bosnia, proteste che si sono susseguite nei giorni scorsi e che oggi continuano con un basso profilo, con un profilo un po' più basso, ma che una miccia che comunque ancora non si è del tutto spenta. Noi sicuramente vi rimandiamo a Ace Journal, un portale su cui potrete trovare informazioni in tempo piuttosto reale, e anche a Osservatorio Balcani. Osservatorio Balcani, da cui abbiamo tratto un articolo di Dražen Šimić sulle privatizzazioni fallite in Bosnia. Infatti sappiamo che c'è questo disagio sociale, disoccupazione, corruzione, assenza di futuro, e sono queste le motivazioni al cuore delle proteste di questi giorni. I lavoratori licenziati tornano a denunciare le privatizzazioni spesso torbide di molte aziende pubbliche che ora sono miseramente fallite. E quindi il motivo, la motivazione principale è costringere alle dimissioni i governi cantonali. Questa è stata finora per i manifestanti l'impresa più facile. Difficile, se non impossibile, sarà fare in modo che non vengano resi pubblici e denunciati i meccanismi e gli accordi delle privatizzazioni disastrose che hanno lasciato per strada migliaia di lavoratori. Non è una sorpresa che le proteste in questi giorni in Bosnia e Erzegovina siano iniziate proprio a Tuzla, perché questa città nord-est del paese è uno dei tra i maggiori poli industriali in Jugoslavia, oggi considerato deserto industriale. E quindi perché Tuzla? Perché a Tuzla le persone sono senza lavoro superano di gran lunga quelle che possono ritenersi fortunate ad averne uno. E questo è il risultato del fallimento di molte aziende privatizzate attraverso processi oscuri e non ancora del tutto chiari. Nel cantone di Tuzla, che ha una popolazione di 477.000 abitanti, secondo i dati ufficiali nel novembre 2013 si contavano soltanto 81.000 occupati e 98.000 disoccupati. Tuzla è una città piuttosto diversa dalle altre città bosniache. Il tasso di disoccupazione nel paese è stimato tra il 27 e il 44%, ma probabilmente la situazione a Tuzla è addirittura peggiore rispetto al resto della Bosnia, e quindi le proteste a Tuzla sono cresciute quando la polizia ha iniziato a usare la forza per disperdere centinaia di ex lavoratori della Polichem e di altre aziende locali che si sono presentati davanti agli edifici dell'amministrazione cantonale per chiedere l'annullamento degli accordi di privatizzazione e l'avvio di procedimenti penali per manager e funzionari responsabili del collasso di tante aziende. Tra l'altro, sai Dusko che proprio in questi giorni pare che abbiano chiuso lo storico Holiday Inn a Sarajevo. Per la prima volta in 30 anni, quindi anche lo storico Holiday Inn di Sarajevo, costruito apposta per le Olimpiadi del 1984, è diventato celebre anche come quartier generale dei reporter di guerra internazionali durante il conflitto nell'ex Jugoslavia degli anni 90, è stato costretto alla chiusura. Tra l'altro è stato già bombardato durante la guerra degli anni 90, non so se te lo ricordi, quell'edificio giallo proprio nel vialone principale. Sì, quello me lo che ricordo, sì, era una delle immagini emblematiche, sì, Holiday Inn in fiamme, sì, per chi si ricorda, diciamo, chi ai tempi seguiva le cronache sull'assedio di Sarajevo, già. E infatti 140 dipendenti dell'albergo hanno fermato le attività per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi sociali. E questo era proprio un simbolo della capitale bosniaca. Era stato venduto nel 2003 dallo Stato alla società austriaca Alfa Bauang Management per 22 milioni di euro. E i lavoratori hanno occupato la lobby dell'hotel e il servizio è stato interrotto, salvo che per i clienti che stanno terminando il loro soggiorno. Quindi niente più Holiday Inn a Sarajevo, ragazzi. Vabbè, non è la peggiore delle perdite, dai, sto Holiday Inn. No, non è sicuramente la peggiore delle perdite, era uno dei palazzi, siccome si sta costruendo sempre più obrobri anche lì, come in tutto il resto del mondo, era uno dei palazzi un po', tra virgolette, storici. Certo, non era costruito, era costruito negli anni '80 e non il periodo ottomano, ma appunto, era un simbolo. Subentra sempre il discorso jugonostalgia, cioè viene ricordato perché c'erano le Olimpiadi, era un periodo d'oro, la gente lo ricorda come un periodo euforico, quindi viene associato quindi a questo sentimento nostalgico anche questo, quindi un simbolo questo Holiday Inn, non perché fa parte della catena Holiday Inn, che non ci può fregare di meno. Chiaro, dell'Holiday l'idea non c'è, può fregare di meno del simbolo, di uno dei simboli della città, siccome tanti sono andati perduti sotto i bombardamenti, un po' ci dispiace. Ma andiamo ad ascoltarci a questo proposito i bosniaci Dubiosa Collective con Recessia. Questo è un pezzo che proprio ci calza a pennello. Recessia. Zajebano vrijeme, ništa dobro da se desi. Dobio si otkaz, sutra jeba nećeš jesti. Počni da se brineš, neke odluke donesi. Bolan gdje si, bolan gdje si. Kako problem samo od sebe može da se riješi. Da li će rođak iz daleka kesu da odriješi. Dok je u dijaspori na drugoj adresi. Bolan lesi, ostavi gdje jesi. Vlada uvijek isto svira, narod uvijek isto bira. Nikad neće biti mira, u novčaniku pola makesija. Recesija. Vlada uvijek isto svira, narod uvijek isto bira. Ovdje nikad neće biti mira, u novčaniku pola makesija. Recesija. Recesija. Recesija. Recesija. Recesija. Ovo nam se ne sviđa. Mi bi da kupimo, al čime to da platimo? Stigla je recesija. Mi bi da radimo, a posla nemamo. Ovo nam se ne sviđa. Mi bi da kupimo, al čime to da platimo? Stigla je recesija. Vrijeme brzo prolazi, ti zaglavljen u trendu. S ove mrtve tačke stvari nikako da krenu. Ne radiš baš ništa, a nadaš se svemu. Sam si izdežirao sebi ovu filmsku scenu. Borite se vi i dalje svak za svoju vjeru. Nije bitno imate li šta u frižideru. Masovna hipnoza danas prešla svaku mjeru. Ruke peru, oni ruke peru. Vlada uvijek isto svira, narod uvijek isto bira. Nikad neće biti mira, u novčaniku pola makesija. Recesija. Vlada uvijek isto svira, narod uvijek isto bira. Ovdje nikad neće biti mira, u novčaniku pola makesija. Recesija. Recesija. Recesija. Recesija. Recesija. Duško mi sta sgridando perché sto conducendo la dittatura del microfono. Mi piace moltissimo questa dittatura del microfono. Quindi vabbè, dai, ti lascio la parola. Va bene, tu sei la capa qua, visto che hai già condotto trasmissioni radio, addirittura in FM, quindi mi devo, ahimè, sottomettere. Vabbè, vedremo. Sento vedremo. Una... una vena ironica nelle tue parole. Boh, vedi tu, io non lo so. Dunque, siamo in chiusura. Dopo questo pezzo crossover ska punk. Crossover o ska punk? Ma è un po' tutti e due. Dubiosa Collective, andiamo in chiusura. Mancano pochi minuti. Ci risentiamo domenica prossima. Assolutamente sì, domenica prossima, sempre dalle 18 alle 19 su My Radio. Ricordiamo i nostri contatti, che sono il gruppo Facebook Balkan Rock at My Radio e il nostro blog balkanrock.noblogs.org. Tra l'altro, fra poco ci doteremo anche di mail, per cui ci potrete scrivere anche sulla nostra email. Ecco, per qualsiasi domanda, commento o richiesta sui contenuti della trasmissione potete appunto scriverci sulla pagina Balkan Rock at My Radio, oppure abbiamo fatto anche un account di Twitter, giusto? Per chi non usa Facebook. Esatto, sì, Balkan Rock _. Ok, questo quindi è tutto. Ultima cosa che volevo dire è che dalla domenica prossima probabilmente andremo in onda in diretta, quindi ci sarà diretta, signori e signori. Quindi in ci diretta. Sarà la possibilità di interagire con la trasmissione in tempo reale, volendo. Assolutamente sì, e poi avrete comunque a disposizione il podcast, per cui potrete anche starvene la domenica pomeriggio a sciare a Bardonecchia e poi ascoltarvi il podcast con tutta calma, perché noi sappiamo che voi non volete perdervi la puntata di Balkan Rock. E quindi questo è tutto da Valentina e da Dusko. Ci sentiamo la prossima domenica e in chiusura ci andiamo a ascoltare un gruppo sloveno, Zaklonisce Prepeva, con Računajte na nas. Doviđenja svima. Doviđenja. Druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata. Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje i za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i jedinstva, za ravnopravnost. U ime svih nas iz 50 i neke za zakletvu Titu ja spevao sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posljednji. U nama je sudbina budućih dana i neki se možda i plaše za nju. Kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas! Pogrešan to, gdje slušamo ploče i sviramo rok. A nete u nama je bitan kapan i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas! Sumnjaju neki da nosi nas. Pogrešan to, gdje slušamo ploče i sviramo rok. A nete u nama je bitan kapan i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas! od noće i sviramo rok, pa nete u nama je bitaka plan i kaže vam šta dobro znam. Računajte na nas! Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, pa nete u nama je bitaka plan. Ja vam garantiram.